si è preteso. Ah, casa sì, capito tio. E come mai non si è uscito questo bel tempo? Ah, così è. Ascolta, quella foto poi fatta la vedi. Già va bene. Io beh, non è urgente, giusto così per capire. Niente di che. Via, va bene, già sono qua io. Ciao. C'è qualcuno qua sui 5? Sul 10 voglio dire. Attento, Marcolino Condo, a chi sei? Ma tutti morti. Io avanti, buonasera. Chi vuol che sia? Ma non tu senti la campana, sono io. Con bip? La campana, tu un bip. Chiamato poco fa, c'era Valerio, non ho sentito nessuno. E io sono arrivato adesso, sono arrivato, ero fuori. Kappa, va bene, allora ben arrivato, buonas tardes. Buonas tardes. Kappa, beh c'era Tapignaras, ancora bucato. Ma tu hai cavolo. Sono la Tapignara, l'ho chiamato pure io e non risponde. Non respira stasera, Fessi. Magari il cuscino lo sta affogando. Era a prendere quel pezzo in armeria come... che c'aveva un pezzo rotto della cosa là. E meno male, è arrivato, adesso c'è il pezzo originale. Gappa, l'hai messo a posto? Fai fuzza, il tappino glielo avevo fatto io, con un cartabice di quelli antinduttivi. Una molla, mio, una molletta... Sì, me l'avevi detto, quella molletta là, ho capito. Vabbè, il punto è che adesso funziona, che va bene. Il suo è originale, è... cazzo, mi sparava a raffica. Adesso funziona bene. Da non funzionare, adesso c'ha il pezzo suo, originale. Andava bene anche quello che gli ho fatto io, il tappino per la molla, no? Io ho comprato la molla e il tappino perché va solo il tappino non lo danno. Vabbè, tanto costava una cazzata. Va bene allora, non c'è problema. Brecco! Avanti il brecco! Buonasera, salutoni circolari ai componenti della ruota. Ciao Natalino e Claudio, non ho sentito altro, ho acceso adesso. Ehi, grazie, buonasera, ben sentito. Ehi, cosa vuoi? Anch'io ho acceso adesso e Claudio lo stesso. Avanti, Cla. Ciao, grazie, buonasera, ben sentito. Adesso stiamo entrando. Poi sino a tarda serata già siamo sempre qua. Ehi, ho acceso un po' così a farlo funzionare. Non è che mi sento molto bene. Ero ricoverato, sono uscito un paio di giorni fa. Ok, riprendi da Natali. Cappa. Anch'io non è che mi sento tanto bene, no? Con la storia della gamba. Io ero ricoverato in pulmologia, anche perché adesso dice che c'ho la gotta e c'ho le gambe gonfie, senti dolori da vedere le stelle, ma ha lamentato le medicine, avanti via ancora di più, abbassavano i di prima. Grazie, alzo poi Pina. E cosa vuoi ti dica? La gotta è una brutta bestia, una brutta bestia. Gappa. E quindi è ricoverato. E tanto bene, un mese. No, sono arrivato 13 giorni e poi mi hanno fatto la cura a casa, adesso devo andare si fa per un bove, la chiesa è la malattia di ricchimi. Gianni, buonasera. Grazie a Malagotta, che sappia io, mi sembra che venga dall'alimentazione, cui non lo so, quindi tu sicuramente hai fatto l'ammonello, avanti già. Buonasera a tutti, da chi mangia troppa carne, è la carne che lo fa venire. Oiaia, una la gotta, l'altro va un piede, il cuscino, adesso manca a camminare, ui, ui. Carità, ma che appoggiare in terra riesco. Figurati, da quando sono caduto dall'ufficio di collocamento mi è venuto attorno a questo dolore al femore che stavo crepando. Sono un bastone buro, figurati. Ma c'è per qualche microfrattura, no, a salire. Cazzo, ti sto dicendo, mi è giunto questi dolori. Da quando sono caduto all'ufficio di collocamento io già credevo mi ero fratturato il femore, perché la gamba sulle prime non mi rispondeva. E infatti fare una lastra per sicurezza, magari c'è qualche microfrattura. Io cosa devo bonevare? Nulla. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Ma veramente io carne non è che ne mangio molto, non è che ne abbia mangiato molto sempre, prima da quando mi aveva detto che non ne potevo mangiare di carne grassa, questo e quello non ne ho mai mangiato. Qualche pezzina di cavallo già me la mangio, qualche bracciola, però ne taglio tutto il grasso, l'osso me la mangio, ma una volta ne ha dato. Yeah. siamo tutti bene. Natalia, riprendi. E infatti, siamo proprio messi bene. Claudio, Claudio, tu che dici? L'unico sale è Claudio qua. E esci, mi tocco le balle. Ma ce lo devi far pinnacciare, dice la verità. Ehi, grazie a Dio, già. Già stando tutto bene, dai. Io c'è così. Poi i dolori sempre alla schiena, e cose così, ma niente di che. Sono dolori di vecchiaia. L'inizio di vecchiaia. Capito? Poi guido un bel, infatti mi ha messo il cuscino dietro la inserire della macchina. Un po' me lo allevia, che soffro un po' di mal di schiena, capito? Graziano, Graziano, dobbiamo stare attenti. Una rottura di scatole, questa cosa, la gota, il diabete, chito, chitarra, mamma mia. Per carità, siccome già lo sai che come c'ho il carattere, io già l'avrei capito che non sono un tipo. Già che so altro che c'è dolori, mi ritengo, tanto non mi basta, non mi basta. Che rimane allegro lo stesso, noi mi dà abilità, tanto mi dà che me lo tengo e me lo grazie. E a me mi dici, senti, c'è bello con tutto questo che vedi, vedo arzino, vedo per fare io. A me se me lo mi pone niente, la niente, a me, a chi mi vede nei consigli di carattere. Allora, di che cosa devo stare, mossi indignato, con un mussichini, tutto incastrato, e fa cosa, con l'altro mi hanno dato in cassa. Mi dà che mi ritengo, lo sapevo qua. Oh. Infatti, grazie, mi fai bene. Tanto non risolvi niente se ti aditi, assolutamente, capito? Riprendi già e rispondo al telefono. Ehi, vabbè. Bisogna conviverci con le malattie, ma quando hai troppo era finita al burino. Non c'è più una cosa fa di male all'altra. Prende le pastiglie per una cosa e fanno male all'altra, capito? E così. Sono delle controindicazioni, certe malattie. Oh, e tu, Natalia, cosa sei combinato di vento? Mi stavo... Sono andato a comprarmi un pezzo che mi serviva per la pistola e me l'ho piazzato, così c'è il pezzo suo originale, non quello fatto da me. Ah, perché in mezzo ci sono i russi e prendono anche il ricambio. E allora, per forza, se ti si rompe un pezzo come fa? Io me l'ho perso al campo, il tappino di una molla era, e gliel'ho fatto, no, perché mi ha fatto difetto, allora l'ho dovuta smontare, ed era una mollettina piccolina e mi si era messa in traverso, e sparava a raffica, capito, perché mi aveva annullato la sicura al percussore, e rimaneva il percussore fuori, e quindi... è successo quello, allora l'ho aperto, me ne sono accorto cos'era, però ne ho perso questo tappino di plastica che va sopra una molla e l'ho comprato la molla e il pezzo di plastica, che il pezzo di plastica mica te lo vendono, 10 euro e me la sono cavata, adesso l'ho piazzata e ce l'ho messa a posto. Hai provata? No, cosa la provi? L'avevo già aggiustata, gli ho messo la molla giusta, poi la provo sempre, la sicura vedere se funziona, capito? Basta che provi quello, poi te ne accorgi quando non funziona, perché non preme e in più rimane il percussore fuori. Ah, ecco. E quindi di plastica, la testina quella che fa comprimere la molla, così è? È un tappino di plastica, che va a sbattere nel tappo di dietro, e gliel'ho voluto mettere io, l'avevo fatto io con un cacciabicciante induttivo, mi si era centrato e l'ha già fatto rubato. Sì, vabbè, ma è sempre meglio per l'originale, almeno sai che la funzionalità è quella giusta e basta. Avanti, grazie, e tu con le armi come sei? Sto facendo, te lo sto dicendo, no, non penso. La gota è sempre una questione alimentare, sì, anche il diabete è una questione alimentare, anche il diabete è dovuto all'alimentazione, oppure può essere come a me che ho avuto, diciamo, l'eredità da mia madre. Solitamente comunque dipende dall'alimentazione sbagliata, anche il diabete, da troppo mangiare, da tutte queste cose, dall'assunzione di troppi zuccheri e carboidrati, eccetera, eccetera. No, ma una cosa io so che è dalla carne che viene. Già, scusate che devo uscire, che sono reperibile, poi scendere la prataniera, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo. Hai capito? Il casino è quello che quando ne hai troppo e poi alla fine non sei più che fai ciubiliare. Va bene, ok Claudio. Però il medico mi ha detto che siccome c'ho anche insufficienza renale, infatti la di 30 o la di 31 devo andare al ghetto alla visita di controllo. Mi ha detto che dipende anche dai reni e dal fegato. E il fegato è portumare, ma se si è messo male da tutte le medicine che ho sempre preso, capito? Sono con l'età di 23 anni buttando i mammi di zini, prima Barabbassa, altro prima Pallucci, da poi Barabbassa e così via. E dunque tu figurati. E a me molte volte mi venivo già nei cui tutti non ammala e non pigliano di più. Guarda, ti provocano belle cose, fastidio. A papà gli erano venuti le ulcere nello stomaco. Guarda che mi hanno provocato anche una specie di come si chiama? Infatti in ospedale è venuto anche il dermatologo. Cambia la pelle, frizzio, e ancora ne ho un po' meno, e mi ha prescritto pomate, una pomata, tre volte al giorno, tutti in capo, in faccia, in un naso, di padre, in pittura, di braccio, come quando vai al mare che ti abbrutti, che ti innesci la bici a pezzi manni, uguale, bruciato. Tutto in faccia, in capo, dappertutto, adesso già mi sta passando. Mi ha provocato anche quello, guardate a fini. Quello è della disidratazione. No, sempre da questo tavolo di pazzie, me l'ha detto il medico. Noia, non mi manca mai una grazia, infatti era un po' di tempo che non ti sentivo. Vabbè, tu stavi andando sul 5 e ti sentivo un po' anche per quello. Ma solitamente quando facevo la spazzolata andavo a ascoltare, se ti ascoltavo sul 5, capito? Andava e vabbè, grazie. Non si può di manco obblighiamo di la salute a chi non avevo. E allora? Siccome a me è incominciato così, mi si è gonfiato un piede, un po'. Tanto che sono andato dal medico mio. Dai, Sasco, strano, mi si è gonfiato un po' questo piede. Ma dici, fammelo vedere. Ti ha giocato bene, ma dici, adesso ti prescrivo queste, ti prendi queste. E va bene. Ma ha prescritto queste pastiglie. E me l'ho preso un cartoncino, diciamo. E lui dice, mi sono bene, mi pare, non mi intendi. E mi duria poco poco. Lo telefono, lo dico, glielo dico, guarda che ne ho preso già un fatto un cartoncino di queste pastiglie che mi pare venivano i 15. Lo bene, mi pare che è più gonfio e mi fa male lo stesso, non mi hanno fatto nessun effetto queste pastiglie. Devi prendere tutta la scatola per incominciare a vedere l'effetto. Come mi devo prendere tutta la scatola? Quando mangio 15 bacchini non comincia a vedere qualche miglioramento. E va bene. Sar, beh, l'indomani sono andato al pronto soccorso, in presa a burato, mi sono sono piatte, tutte e due là, e i bigli. E da cos'era? Però mi hanno fatto le analisi, mi hanno ricoverato, flebi, un sacco di bucari, e alla fine mi ha detto, dalle analisi risulta che ci sarebbe un inizio di costa, come questa cosa, io carne no, non è che ne mangio. Tutte le medicine che lei prende e poi lei c'ha anche disturbi al fegato, forse a prendere tutte queste medicine. Poi tutta compagnia bella del tran tran che c'ha tutte queste malattie, lei prende un sacco di medicinali e mi hanno provocato questo coso qua, capito? Insufficienza renale, diabete, trascuri guai, avanti a Tavino si è perso e vabbè, Tavino dove va, ognuno c'ha quello che gli mandano, anche io non sono messo bene, no, col piede, sono già 3 anni così, non riesco a farmelo guarire, lo sai. Ancora col piede, allora non sei rientrato al lavoro? Sì, sono rientrato, non posso più andare in malattia adesso, sino a gennaio. Se no mi licenziano, sto lavorando col piede così, doppiccando, mi vedono sofferente, doppiccando, non è che hanno il coso di farti un po' di ferire, fa niente, nulla, non gliela fatti nulla. Oh, i datori di travagli sono tutti questi, tu puoi essere il più bravo che c'è, e come a me, tanto mi ha visto che proprio tutti ci hanno cato, gli è andati a spesso in bagno, gli da bella dice che io pure andare a piazzare cosa non ci andavo più, se voleva lavoravo o in negozio oppure in falegnameria, però io pure a fare installazione, a piazzare finestre, porte, portoncini non va andati a più, se mi pure era così, allora ero deciso la volta. E allora lui no, va bene, rimane in falegnameria, al limite se capita qualche volta che mi serve un'urgenza ti mando, e va bene, già mi sta bene, così ero sempre in falegnameria 3 anni e mezzo, qualche urgenza già mi chiamava e mi mandava, ma appena la dichi cardiare e la dichi non cardiare, sai bene, è capito, e si è girata davanti così. Mi affillava la testa, fatta lei questa domanda per la pensione, se non puoi continuare, quindi, mica io lo so, non ce la faccio a lavorare, cioè io vorrei lavorare, però purtroppo non è colpa mia. Mi sento bene per di chi sono così, però lavoro ugualmente, non è che mi gratto le spalle laggiù. Sì, quello sì, ma è per te, già mi vuria bene, non è che mi si raccolgono pure. Allora, gli ho detto, io l'ho rifatta le domande, adesso vediamo. Poi mi aveva avuto una boccata e già me l'hanno accettata la pensione e tutto, la fine. E allora mi sono andato. Adesso andando in miniera, finanza a rendere la falegnameria, chi era fuori norma, l'attrezzatura e macchinari che c'aveva, e anche l'impianto elettrico. E mi hanno salvata. Dunque... Sì, io sono andato e allora a novembre, no a dicembre, a febbraio ho preso la prima pensione e no, a me mi è andata bene, all'altro vicino che era con me è andata male, anche noi questo non lo vogliamo in banco, dunque la potuto licenziare tranquillamente perché gli aveva fatto il contratto in falegnameria, io invece avevo il contratto in negozio, se volevo io da ma il viaggio rimane in negozio a lavorare, perché ce l'hai tutti in collo. Capisco, in falegnameria di giù, oggi non ho voglia di lasciare, tutti. Qua non sta, non stavamo tutti su. E stati, nel rimorchio c'è le bagioni, lo scaricavo col muletto, la mettevo lì, mano a mano che gli serviva, accendevo, salivo io col furgone, o il materiale che gli serviva, capito, due, tre pedali, glieli portavo su. E gli sono era ma spesso in facchinata, caricamelo un furgone con quei sacchi da 25 kg. A Tanini, Farassini, io sempre abbia, caricamelo un furgone, a sentare un mappo che non ti dico niente. Tutto da solo, mi. Anche a scaricarmene 300-400 sacchi, da solo, mi. A sentarmi di la pedana e tutto. Alla fine non ce la facevo neanche a chiudere le mani, per di cazzo di Duriani di Dizzi, a pure abbigli a sacche. È un film che ho già visto, grazie, Futitini. Idem come sopra, anche io facevo tutti questi lavori qua. Da solo, sempre, con un camion anche con 10 pedane di roba, da svantellare a mano, eccetera, eccetera. Perché non c'erano pedane idraulica, quindi andare a venire tutti dovevi svantellare a mano, avvicinarla, prendere il carrello, portare la vicina dove era, se no si lamentava. Poi hanno cominciato con il roll, e allora da lì è andato bene, con il roll, anche per i rollistini, non si arrangiava. Invece, quando non vedevo la plastica nella barava, raccolto dalla strada, dove fa tutta la barata, insomma, un 200 metri di discesa, ma ripidami, e in discesa con due sacchetti sulle spalle. Ti ne truccava le patti, ti ne truccava le china e l'acqua quando carregava lo rimorchio. Quando sono entrato a travagliarla ho detto scusi, ma il furgone lì se ne sta ridendo, per il culo ci sta prendendo. Perché? È perché io li carico a 100% nel furgone e scendo col furgone lì giù. Certo, grado io li vado di china a terra io, carregando i sacchi così. Scendere nessuno che è troppo ricco, dai io gli faccio vedere che funziona, che ci scendo lo stesso. Davvero, sì davvero, a tuo recapito e se per anno sarà, io non ci preoccupi, arrivo il furgone in bongo, il vento, e si occupa da retromarcia. Piano piano, frinendi no, ecco, si occupa della decaricata, si occupa stato a prezzetto. Ci abbiamo messo mezza giornata, prima ci mettevano due giorni a scaricare il rimurchio, hai compreso? E bravo Graziano, proprio tu ci volevi, davvero sì, la china era mia, non hai compreso? E non toccava da noi che tu farabbi a Rampini, non toccava sopra. Ma gli ho messo le tavole io, a chi scemo io, gli ho fatto il rialzo, no? Gli ho messo delle tavole da 5 doppie, tutti chirriti. Io mi stavo per la via, tu stai sentati lì dentro nel giardinetto, col ponteggio. Perché lì ti faceva fare il tutto, c'avevo il ponteggio di 4 piani, quando era tutto allestito. 4 piani, 10 metri di larghezza. Vedi, altezza era 4 piani. Con le pedane ci avevo, perché mi faceva fare anche i lavori di ristrutturazione di facciatemi, anche quelli mi faceva fare. Che cane morto, ma già ti pagava messi. Sì, stipendio 1200 euro, e cosa, la paga normale, la dico. Ma io ti ripeto su da. Ti rifatti a giù da e perché i capannoni giù fa legnameria, chi cavolo glieli ha ristrutturati, Graziano glieli ha ristrutturati e forse Bruca Tramo tutti in altra gabbicchia, è passato anche il bettume liquido per spingere il calore, vai a vedere la paghi questi capannoni, tutto il muro fatto in giro con la recinzione, tanto di grate quelle a quadrettini, cancelli scorribili, le gambe da fatti tutti questi travagli. E io vi la giù qua, certo non ve la Milano in bassi. Chi di Milano in biliardo è sempre in giro? Ma io mi avevo fatto pagare a fatti che ci goce, eh. E se ti rivolto, ma ti rivolto al tempo perso quando non sto lavorando e mi ripaghi a fatti. No, quelli erano lavori che mi faceva fare quando c'era poco lavoro in falegnameria. Si capitava una ghita che veda poca roba, me li sorprendeva. Come volume di travaglio c'era poco, lo sorprendeva. Fino a che non accumulava un poco di travaglio, di più, no. Allora mi faceva fare questi lavori. Oi, oi. Vabbè, mi dobbiamo farti dire niente allora, niente adesso, soprattutto adesso che stiamo ricalando tempi addietro. Ma a me non mi pareva io, meglio di stare al negozio io, non hai compreso. Oh, e anche dentro tutto imbianchinato. Tutto io me l'ho fatto, oh, a pistola, col compressore, quello grande, l'ubidone nata al monteggio, quello con tutti la pesa? 1950, l'aspirazione è tutta canta imballata con questi tubi di ferro, se ne parava uno in capo si ammazzava e non aspirava niente, tutta roba vecchia, capito? Sì, lui si dava con le mascherine di casa e non si via la nuda, alla fine mi ha preoccupato a dire le mascherine come si dovrebbe, come si deve. Infatti quando mi sono andato mi ha già arrivati tutti e giù, cioè io qua non le ho lasciate, era roba mia. E poi molte volte si è impresa, ma come ne puniamo la mascherina, fa veloce. Vabbè, ma sbagliato, perché poi respiri cose che non devi respirare. Ma sta via, ci sì. Ma sta lì no, è sparito. Arriva sta gente. Invece che maraviglia. Quando è morta? Ah? Quando è morta, 52 anni. Ehi, 52 anni ci aveva. Cacchio. Un bel giovane, pubblica. No, mamma è morta a 72. Oh, mamma, pari ai cinirandi e ni babbo. A chi l'abbiano operato, a lui ce l'ha perforante. Poi lui ci sono messi di punti, non avevo voluto andare. Poi è giunto questa malattia ai nervi, che gli si sono aggrancate le mani, poi i piedi non camminavano in manco più. Poi la prostata. Pari a chi ce n'è andato via babbo. Invece babbo, grazie a Dio, è campato altri 6 anni, è campato. Babbo, no, di più, cosa si chiama? Sbatte, 6 anni. 20 anni in più è campato mio padre, è morto, sarà un 5 anni fa. Ah, grazie. Ehi, dimmi. Cantami va via, grande muccio, papà tuo. Cosa? Cantami va via, grande muccio, papà tuo. Mi sono seduto e mi sono messo a contare perché non ce la facevo più. facendo io, mi faccio l'inventario, sì sì, guarda, oramai, domenica lavorato, non so di riguardo, se sono la domenica, il giorno di festa, no, continuo. No, io taglio così, perché poi non è appuntamento lungato, lui pensa, io lo pago dipendente, per cui deve fare il lavoro, non lo so. Io gli ho sempre detto, al bo vado sempre a Pina, sempre, la Pina è sempre più pungente. Purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? D'altronde, anche tu adesso sei parecchi mesi con questo piede. Stava parlando di Giulio, comunque deve essere qualche splatter forse che c'è dal canale di AC. Sono rientrato, buonasera di nuovo. Molto bene, forte, tu pensa che adesso è rientrato Claudio, hai superato pure Claudio, sei anche poi più forte di Gianni come segnante, va avanti qua, buonasera. Ehi, vabbè, io sono col baracchino, lui è molto più vicino a te, ciao Giulio. No, io ero qua con Gianni, ma mi hanno telefonato e sono dovuto scendere a Predanieta a ritirare del materiale urgente, sul fiorino. Sono reperibile, oggi sono a casa, quindi mi sono assentato un pochino, dai. Buonasera a tutti di nuovo, riprendi Giulio e fai girare. Ok, sono a mal di schiena stasera, ma comunque passerà, che ne so, speriamo bene. Avanti Gianni, riprendi, vai. Ehi, vabbè, mi piace anche un po' di pisceriano, giù, quello che va. Ciao Gini, ma anche se sei come ti rimarchi, cioè. Proprio così, tanto mi devo una, purtroppo è così, non la possiamo cambiare. Pazienza, dai. Sopportiamo. Vai, grazie. Ehi, ben rientrato Claudio. Mi sa che sta a radio e degli colpi. Uscendo benissimo, grazie. Stai uscendo bene, molto forte, la radio bella, limpida, chiara, va molto bene, grazie, no, non ho bisogno di problemi. Avanti Claudio di nuovo al telefono, sicuramente mi prendi già. Sì, sono al telefono. Vai, vai. Ma lo sai cos'è Giulio? Sai che questa radio, roba che non mi faceva prima, tutto sta assorbendo, sento Gian Maria, c'è poco fa ti ha coperto, anche Tore, sembrano qua, in questo canale. Perché c'è da vicino. C'è da vicini, dovevo graziare, e poi io sono stato con il mondo. Non è più una tenda al posto, è poi anche molto bassa, a livello del pavimento, si può immaginare, un metro più in alto del pavimento del terrazzo, per cui cosa vuoi pretendere? Va bene, va, comunque, già va bene. No, sono vicino a te, ma non è una cosa per te, ma se faccio platterano, è normale, no? Vai, grazie. Gianni. Ehi, grazie. Ma lo so dire che cos'è? Stazione base, grazie. No, un veicolare. Sì, tirava laggiù 40 anni. Si dovevi da ciuchi, un catarro. Niente, ubichi, tutti cicciati, tutti. Non detta. No. E a su un portacenere, cioè è un piatto, non è un portacenere, un piattino di quelli dove metti la frutta, quelli piccoli, è alto 3 centimetri, e non va ne strappa, da un catarro vecchio. Ma tanto noi ti dicono, non vi dicono, grazie, tanto pure i cacca e mezzo, tanto noi non vi dicono, e te sappi che c'ha la... Sì, quello sì, però per dire adesso, quando parlava al bucato, siccome assorbe roba che prima non rubazia, e sento la Gio Maria che mi copre, a Giulio, anche Ettore, Ettore Squalo, lo stesso me lo copre, e non lo sento a muovente a Giulio quando parla. Però detto, grazie, sono con il Paolo, per quello che... anche se sono vicini mi avete dovuto sentire, ma se rimetto l'antenna come prima mi sentirai ugualmente, nonostante che gli spazi ce l'avrai sempre, e io è contagio, per cui non vedo problemi. A Putidini, avanti qua, ancora al telefono ai Gianni. Probabilmente saranno reso conto di quello che ha fatto. E cosa volevo dirti? Anche a me, quando per dire andavo in macchina lì a Sassari 2 eccetera eccetera, che è un amico di Gabi, andavo in macchina lì a prendere le cose, quando c'era il macchina acceso risentivo, copriva tutti i canali, io non verso, sentivo tutti. Eppure col Washington non me lo fa. La volete Washington? Mi dici il Washington. Infatti domani me ne rubo io, o domani o questa settimana, perché ce l'ho conservato dentro il mobile. Ma chi con la verità di che mi ne ha parato, mi dà fastidio. Perché? Adesso perché ce l'ho qua. Ma se vado sul 5 è la stessa cosa. E nonostante loro sono sul 20 i miei. No, io non li sento per niente. Tutto bene? Tutto bene, Giulio, sto venendo da farmi la passeggiata. Io ho fatto tutta la veloce, mi ha fatto lì. E dopo sono tornato indietro. Hai fatto bene, Rosy, io ci vuole ogni tanto per fare quattro passi, via va bene così. Certo, e vabbè, meglio così, dai. Visto Graziano, io lo sento bello pimpante stasera, anche se ha illustrato un po' di malanni, ma malanni ne abbiamo tutti, giustamente, ma lui è un carattere d'oro, veramente in gamba, non si abbatte, quello è molto, ma molto importante, questo fatto che non si abbatte lui, e fa bene, così si vive nella vita, proprio così, sempre in allegria, nel male e nel peggio, sempre in allegria. Lui c'ha questo cane. così, oh Rosy. Tutto bene. Vabbè, dai. E l'altro giorno, infatti, stavo telefonando e invece aveva la batteria carica. Ha fatto uno o due squilli, perlomeno io ho sentito così, e poi non me l'ho accorto che la batteria era carica, e dunque stavo telefonando, Graziano. Va bene, dai. Comunque poi successivamente, un pochino più tardi, l'ho sentito a Marattino, sicché sapevo come stava, perché l'ho sentito con Gio Maria e con Battisio, mi sembra che c'era anche, e dunque sull'altro canale. Va bene così, dai. Molto bene, avanti già. Sì, vabbè. Interessante essere allegri dentro. Diciamo superare le malattie, superare così, perché tanto bisogna conviverci con le malattie, non ci sono da fare. Io qua con questo piede sto soffrendo le pene dell'inferno, ti sto dicendo che sto andando a lavorare, non so come sto facendo, perché mi brucia, mi fa malissimo, a volte mi scendono anche le lacrime dal sole, dal dolore. Già lo credo, già ti capisco, quando ci sono i dolori, uno non è che se li inventano, ci sono e basta, è chiaro che si lamenta e si soffre, ovviamente così. Adesso sei parecchi mesi, caspita, sei da quando? Sei già un anno così quasi, o già? Ma cosa stai dicendo? Sono 3 anni così, non un anno, 3 anni che ho... Sono 3 anni a settembre che ho fatto. Perché tu devi andare a prendere la mano di Marco e andare a Piazza d'Italia. Così siete tutti e due uguali. No, non siamo uguali, lui va avanti e io va giù l'altra. Io va che già Maria, vabbè. Buonasera a tutti. Avanti Giulio. Ok, ciao Franco. Ben entrato. C'è anche Graziano. E anche la moglie di Graziano, così 4 chiacchiere abbiamo scambiato. Te lo mando avanti, vai Graziano. Ciao Franco, ben sentito. Ok, tutto a posto. Ciao Graziano, salutami anche la signora. Niente, tutto a posto. Sì, quello che è a posto, quello è vecchio. Vediamo di farlo venire piano, Graziano. Comunque è tutto bene, va benissimo. Ok, e beh Giulio? Andando avanti, cosa ci vuoi fare? Vivendo la vita da pensionato, così 4 passi la mattina, qualche volta anche la sera, oggi magari in compagnia di un po' di mal di schiena, ma quello fa parte delle... della persona, perché da anni che io soffro ogni tanto il mal di schiena, per cui ormai sono abituato, ma quando è così un pochino mi riposo e già mi riprendo sempre. Va bene così, fra, riprendi e fai girare tu, vai. Chiaro, beh, non mi parlare di mal di schiena, quella lì è maledetta. Sono due anni al disco e qui il lavoro che faccio è anche più massacrante. Vabbè, no. Ma questo va bene, ci manca poco. Avanti Gianni. Prendo io, Gianni, si vede che si è assentato un attimino. Nel disco lo stesso è una cosa molto, ma molto fastidiosa, indubbiamente. Io non proprio l'energico, ma ho avuto la sciatica tanti anni fa, ma ti posso assicurare che era una tragedia veramente. Non riuscivo a muovermi, sono stato 7 mesi con la sciatica, che è più o meno simile come dolore a quella dell'energico, anche se l'energico è una cosa un po' più seria, per dire. Già ti capisco, sì Franco. Certo. Io ho fatto anche quella lì, ho fatto anche l'anno scorso. Parecchi mesi anche, l'ho visto. Capivo anche quello lì. Va bene, ah. Vuol dire dobbiamo superare tutto quanto nella vita. Ah, terapia. Eia. E cosa vuoi fare? Oi. E così è. Tanto, più vi becce peggio è. A fai da me, avanti si faccio la cosa. E aveva già un'altra mano in più e anche mi diceva scarica. Ehi, hai proprio detto Natali, per carità. C'è quello tipo di partiglie, queste cose qua, perché se tu vedi certe partiglie, specialmente quelle della pressione, quelle cose lì, quelle partiglie lì, e a volte ti fanno venire anche quello lì, la cosa, fa venire. Va bene, avanti Natali. Eia, sono rientrato, che mi ero dovuto assentare, stavo cercando dei documenti. Chiappa, avanti giù. Ok, ciao Natali. Vabbè, comunque. Ma campano, cosa vuoi fare? È certo che sarebbe stato bello avere sempre 20 anni, sempre in forma, sempre correndo, un campanato, come se fare un punteggio. Ma quando cominciare via, agli se dai mia, bisogna venire uno il dolorino. Vabbè, ma comunque non mi lamento, perché se penso che c'è tanta gente che sta molto, ma molto peggio, per cui è una questione fisica che mi devo abituare. Vabbè, comunque. Vediamo se è rientrato Gianni. Gianni? Sì, sono rientrato, sono andato per la spedire, perché la pressione che stava cucinando il brodo. Mentre io parlavo, lì cucinavo, adesso ha finito, sono andato a spedire. Scusate che ero al telefono, sono rientrato. Ciao Fra. Ciao Claudio, buonasera anche a te. Sì, sì, va bene, va bene. C'è la tanta gente allora che tutte di stand-by. Avanti qua, che prendi tu, dai, fa girare. È già la terza volta, vai, che mi assento, perché poco fa ero in radio con Gianni e sono uscito, che sono reperibile, sono andato a Pretania dalla Hydrop a ritirare dei cuscinetti. Avamo è durata ciamà, che manca altro materiale. Adesso mi avete rotto le balle, domani mattina, avanno ando più a loco. E la prima volta sta la lettora tutta la sera, ma non ammara, riprendi Giulio. Ok. purtroppo così. Ma sono letto da tanto tempo, tu mi hai sangue, mi hai. Adesso è sempre cercato da fare ogni evenienza lì sul posto di lavoro. Vabbè, dai. Anche tu ancora ne hai qualche anno appena, poi anche tu sarai pensione e sarai libero da ogni impegno. Magari poi te ne procuri altri impegni. Chissà in che maniera. Devo dirti sinceramente, guarda, io avrei preferito lavorare ancora, nonostante i miei 65 anni, avrei preferito lavorare ancora, perché secondo me stavo meglio, più riposato, ormai non bisogna niente, e la sera insomma mi sento un po' stanco nel senso, perché non so cosa fare, ecco, annoiato più che altro, per cui fai la Rosifano o la poltrona la Rosifano, non va bene, non va bene, bisogna, quando uno lavora, vabbè, si fatica, d'accordo, però si sta anche meglio, secondo me, forse sarà l'abitudine dopo tanti anni di lavoro che uno assimila, e sarà anche per quello, non lo so. Vabbè, dai, avanti, grazie. Purtroppo è così, bisogna lasciare spazio ai giovani, e dai che non si lavora più tra lì. Io lo stesso, anche se avevo quei pochi malanni, però lavoravo. E invece il rosso non fa più pazienza, largo ai giovani, che hanno gana. Già toccare di va. Va bene, là. Ragazzi, io vi saluto qua, chiudo, che fra poco mi devo dare la Battisi. Ciao Claudio, mi ha fatto piacere di sentirti. Ciao Natalino, ciao Giulio, ciao. Fatti sentire ogni tanto, scala di qualche canale, già siamo qua, dai, ci fa piacere ascoltarti, buona serata, buon tutto, avanti Fra. Ciao Graziano, buon tutto, dai, ci sentiamo, stai bene, niente, dobbiamo parlare che dobbiamo uscire, mi ha chiamato la signora che dobbiamo uscire, ci sentiamo tra le prossime, magari più tardi se ci siete, niente. E tu Giulio, io saluto tutti, così non tutti, buona serata e tutti per me. Avanti Giulio. Ok, ciao Franco, buona serata, grazie per essere entrato a salutare, ci sentiamo alle prossime, fatti sentire. Ciao Graziano, salutoni, anche a te, come ti ha detto Claudio, siamo sempre sul canale 10, su canali migliori di me e la frequenza di Sassari, per cui vedi un po' tu, ciao Rosi, salutoni anche a te, fatti sentire anche tu, alle prossime, ciao ciao, avanti di qua. Hai lasciato un attimo di bianco, ok, molto bene, ciao Fra, ci sentiamo dai, tante cose belle alle prossime. Oh giù, è che sono arrivato alle 2:30 a casa, alle 3:30 mi hanno chiamato che l'elenco del materiale era pronto, ho detto controllatelo bene, notate poi che ci manca materiale perché domani dobbiamo finire dei lavori di manutenzione molto importanti. No, no, il materiale c'è, ok, allora mandamelo, ma mi mandato lo gosio, mi ha stampato tutto, sono andato a Predaniela, allora mi hanno già mandato, gli mancano i due cuscinetti, ma porca miseria, puh. Allora domani la mangiamo e do capigliarli a Valedoria perché quando esco io è chiusa la idro. Ui, ui, ui. E cosa vuoi ti dica? Vabbè, vabbè. No, sono reperibile oggi, capito, stasera, quindi mi sto occupando di queste cose, infatti c'ho il fiorino a casa. Ma è già tutto garrigo, come state mio nuda. Bene, bene, bene, bene. Gianni, avanti. Ma la reperibilità se anche la ce l'hai, Claudio. Fino a mezzanotte. Cazzo roba. Quindi fino a mezzanotte mi posso chiamare. Non è la prima volta, no? Quando ero all'officina turitana facevo la reperibilità dalle 6 di sera alle 6 della mattina. E nel periodo estivo sono uscito d'estate minimo una ventina di volte, all'una di notte, alle 2 di notte, alle 3 di notte, a Montelva, lì sulla strada di Tintino, dove c'è la stazione di pompaggio per la Corte, la Pedraia, Palmadola, tutta quella zona. Si fermavano le pompe, capito, andavano in blocco, quindi andavo a riarmare, ma tanto oggi già uscito di tutti. Già si è pagato anche per questo, noi siamo in tre, uno fa dalle 2 alle 10, l'altro fa dalle 10 alle 6, e io invece faccio praticamente dalle 15 alle a mezzanotte, capito, dalle 3 del pomeriggio fino a mezzanotte. Gli altri due fanno il notturno, insomma, io lo manco troppo, gli altri invece fanno il notturno, perché sono più giovani di zio Claudio, come dice Nicola. Vai giù! Certo, vabbè, comunque è un lavoro ultimo, per cui bisogna tenere un bello, bello stretto. Va bene così, va bene, ah, comunque. Stavo dicendo, allora, ieri zio Buffon e il signor Dybala hanno rovinato la Juve, soprattutto Buffon, con questa dipinta in aria così davanti ai piedi di Caldara, boh, cosa volete di Chiara? Guarda, lascia perdere, perché a parte quello lì, a parte quello, uno sbaglio, Dybala lo può anche fare, l'ha tirato con poca potenza, con rigore, poi io pensavo tirava di sinistro, l'ha tirato di dritto Biatti. E va bene, ci può stare. Buffon è un grandissimo asino, su questo non ci piove. Ma la cosa che mi ha dato più fastidio è il... aspetta, metto il lock, sì. Il problema di questo cacchio di VAR o Giulio, no? Cioè, ma è possibile che parte un'azione dall'X-Line sulla fascia, ci sta un fallo perché il fallo c'era, ha dato una gomitata, è uscito sangue dalla bocca a Gomez, ok, e si è cuccato in terra. L'azione ha proseguito, l'arbitro non se n'è accorto, l'azione ha proseguito, Dybala, cross, Mandzukic, gol. Allora, non si, per me è una grandissima stronzata questa cosa, perché tu convalidi il gol, perché l'azione è stata in tre passaggi, non ha segnato Steiner, altrimenti l'annullavi perché ha fatto fallo. Ok, dopo che hai convalidato il gol, siccome il VAR ha verificato che tu non te ne sei accorto, ma lui sì, perché c'è un altro arbitro seduto a vedere la televisione, ha verificato che l'Einstein ha fatto un fallo, ok? Se lo curi ora, basta, lo butti fuori, se è da buttare fuori, se no la munisci, ok? Però non puoi non convalidare il gol, perché l'azione è stata fatta, il gol era regolare ed era un bellissimo gol su azione. Ma ha girato un belle scatole, credimi, un belle scatole. Questa cosa di rubare è una cosa allucinante. Poi, se vogliamo essere proprio sportivi, sportivi, Giulio, il rigore non c'era, perché il braccio non l'ha toccato, ha toccato la spalla, ok? La spalla. Quindi io non riesco a capire perché abbia dato il rigore. Non lo so, perché il braccio si è visto di netto che non l'ha toccato, ha toccato la punta della spalla, quindi non so se anche lì è fattibile il rigore. E questa cosa del VAR a me mi sta prendendo male, ma male, male, male. Ogni volta Vemani, un chi la televisione, a Baidà, ma l'arbitro è in campo, se assegna il rigore, c'è il rigore, se è da buttare fuori, è da buttare fuori. Ma cosa? Boh, non capisco, non lo so, boh, non lo so. Ma ha girato un belle scatole, veramente, non era partita da 2-2, ma era partita da 4-2, quella alla grande. Sì, sì, indubbiamente. Invece il rigore per me non c'era nemmeno per me. Io ho visto che ha toccato la spalla, non il braccio, e anche se fosse stato anche il braccio, era in barriera come si è sollevato, uno non è che ha le braccia fasciate al corpo, è chiaro che uno si può anche muovere le braccia e essere così fiscali. Però voglio dire, hanno annullato il gol della Juve, d'accordo, siamo d'accordo. C'era la gomitata anche lì, l'azione ora finisce subito, tanto più che c'è il guardiadino lì anche di fascia che deve vedere, no, invece no, hai fatto continuare l'azione, hai fatto continuare e hanno segnato e poi me la annulli solo perché la panchina della cosa dell'altra squadra si sono stati tutti in piedi e hanno chiesto di guardare il VAR. Intanto si deve subito ammonire, subito, immediatamente, perché regolamento è quello. Se un giocatore chiede all'arbitro di andare a verificare il VAR, è come se avesse parlato male all'arbitro stesso, lo deve ammonire subito, immediatamente, e poi sarà facoltà dell'arbitro se andare a vedere il VAR o meno, perché non sei tu che devi dire all'arbitro quello che deve fare. Ecco, lì l'arbitro ha sbagliato due volte, non una volta, due volte. Poi per quanto riguarda il discorso rigore, vabbè, se non c'era, d'accordo, però gliel'ha dato alla Juve. Se l'avesse segnato avrebbe vinto la Juve, invece dice imbecille, l'ha tirato piano piano così, boh, cosa vuoi che ti dica? Per me comunque alla fine, facendo un ragionamento logico, per me l'ha presa la Juve, cioè i due punti ieri li ha presi la Juve, uno è stato Buffon, ha preso per Buffon e per Dybala, poi cosa? E anche per Allegri, perché se continuiamo a fare una formazione del genere, quello lì è un morto, non è allenatore della Juve, te l'ho detto già da qualche mese fa. Vabbè, cosa vuoi ti dica? Ciao Marco, buonasera. Gianni, riprende e fai girare che è entrato Marco, mi pare. Ehi, buonasera, Trotta Pignana, buonasera, va. Ehi, buonasera a tutti, dai. Non ve la prendete, è solo un gioco. Solo un gioco. Ci mancava il VAR e il Vaffangala. Alla fine gli arbitri sono due, uno che sindaca le cose fatte all'altro, mamma mia, mamma di turchi, vai Giulio. Ciao Marco, vabbè, ma per dire, no, stanno cominciando un pasticcio, per non parlare pure che c'era un altro rigore quando l'ha atterrato a Higuaín, perché non ha guardato il VAR anche in quel caso lì? Perché la stanno a Juventus, la vogliono fare perdere, l'ha capito, la vogliono fare perdere, devono vincere altre squadre, soprattutto l'Inter deve vincere, quindi è considerato come tutti i favori che gli stanno dando, ma comunque, se prendi o Claudio, prendi. Senza buttare un pasticcio, ha arrivato un gruppo Verona, Sant'Antonio mio, che ci ho fatto, ciao Marco. No, ma, cioè, per logica, allora in campo c'è un arbitro, Marco, io sono sportivo, sono juventino ma sono sportivo, in campo c'è un arbitro che ha il diritto di decidere quello che vuole in campo, ma è mai possibile possibile che debba decidere un altro che è seduto a guardare la televisione? Si deve dire no, è così. Cosa ci dite? Io ho dato rigore del rigore, io ho fatto finire l'azione, ha segnato e per me il gol è convalidato. Ok, e ammonisco Lichtsteiner, o lo butto fuori da ultimo uomo, ok, forse anche su Gribiasi non me ne ha fatto nulla, va bene, però sei tu che decidi. Se ci sta decidendo una televisione, ma come la matti? Già a Verona l'arbitro fischia Marco, rigore, ok, rigore, tutto a posto, quello mette la palla nel dischetto, stava andando a tirare, già con la rincorsa, l'arbitro blocca l'azione, VAR. Stiamo scherzando, cioè dai un rigore, lo convalidi, metti la palla nel dischetto per mandare il giocatore a tirare. Ha avuto un secondo Guido al microfono e dice no, ferma, cioè roba da matti. Mica il calcio italiano sta diventando una porcheria, a me guarda, allucinante. Già non le seguo io, e mi pare nemmeno Gianni. No, non mi va più dare il calcio a me, perché proprio sono... non lo digerisco. Uno perché c'è molto marciume, ci sono bustarelle, sono parti truccate, tutte queste cose qua. E due perché non mi ha mai entusiasmato, dico la verità. Giocare a pallone mi piaceva da ragazzo, però guardare le partite non mi ha mai attirato. Lo stesso io. Ogni tanto guardo qualcosa in chiaro, se proprio non ci sono film. E vabbè, nonno era juventino, mamma è filo juventina, anche se non ne sa nulla. E vabbè, pazienza. 40 minuti a trovare un parcheggio qua, non ce n'era nessuno, né qua né giù. Giornata piena era oggi. Finalmente è uscito qualcuno, mi sono messo. Senti, voi che avete il parcheggio dietro, Gianni, non avete problemi qua, viene, passa la voglia anche di pigliare la macchina, ecco perché ho detto, cerchiamo di mettere a posto la moto, almeno con la tredicesima. Io direi giudito già da un sacco di tempo di metterti a posto la moto, ti disimpegna tantissimo, assolutamente. No, io c'ho anche il fiorino dentro, ne ho due posti a... piccola lasciata a sorso, deposito, sono salito col fiorino, quindi fiorino l'ho messo dentro, ho posto la piccola, la grande nell'altro posteggio, e quella è la comunità di qua, non ne ho problemi di posteggio, c'ho due posti auto all'interno, quello dell'altro appartamento di questo, quello dei miei soci, quindi me lo ero tenuto posto auto, va bene. E vabbè, non siete appassionati di calcio, magari vi piace la Formula 1, vi piace il MotoGP, la pallacanestro, vi viene a vedere. Io ad esempio il MotoGP lo guardo così perché mi piacciono le moto, la Formula 1 la guardo così santuariamente. Il calcio mi appassiona perché ho la passione. E quindi così. Vabbè, però... come dice Gianni, molto molto marciume, molta gente che pensa di fare i soldi gratis e di comandare alle spalle degli altri, tanto io non pigliano i dinari, capito? Avanti Giulio. Ok qua, sì, beh certo, no, diciamo che come sport è uno spettacolo, la verità, diciamo che è addirittura il più seguito al mondo come sport, per cui non è solamente noi che siamo appassionati, eccetera, praticamente tutto il mondo si è appassionato di calcio, anche la Cina adesso si sta appassionando molto da quando hanno comprato il Milan e l'Inter, anche loro adesso stanno diventando più parte degli italiani e degli inglesi e degli spagnoli, per come tifoseria, vabbè comunque, andate. Marco, perché non il parcheggio? Come ha detto Claudio, preparati la moto e la macchina là, sempre ferma, è un punto, e non la tocchi, la usi, solo esclusivamente se devi uscire quando piove. Anche l'inverno con la moto ti copri bene e non hai problemi. Quello purtroppo è il problema degli abitanti della città, anche al centro soprattutto, che non trovano mai parcheggio. È un problema, lo so, ma da fastidio è, perché da fastidio. Però purtroppo cosa ci vuoi fare? A me mi sembra che ci sono più macchine a Sassari che persone che la guidano. Per cui ho detto tutto, no? Vai Marco. Ehi, guarda, una volta non era così, ti sto parlando del 90, primi anni 90, adesso è diventata una cosa incredibile, poi da quando hanno fatto bar contro bar, sai, sono tutte parcheggiate lì anche in Vietto, in zona bar, queste macchine. Un macello, poi hanno fatto una specie di sala giochi vicino al bar, un luogo scuro, brutto, mamma mia, a buttare i soldi. Sono un po' stanco oggi comunque, sono andato solo da lì a prendere due cosette, ho trovato quelle lampadine H4, c'erano ancora per fortuna, e vabbè. Non ho manco voglia di parlare, la mi sa che li prendete voi e io rimango solo all'ascolto, ok? Dai, per oggi sono demotivato, sono abbastanza demotivato. E c'ho il naso chiuso anche, non riesco a parlare. Marco, va bene. Sai cosa ti dico? Tanto tornando al discorso parcheggi. Io quando ho iniziato a lavorare per conto mio, in via Nuzio Cevi, tu non so se la conosci quella via, è abbastanza lunga come parte la via Sorso e finisce in fondo allo stadio dei Pini praticamente. Quando io sono andato lì a lavorare in quella strada, c'era solo la macchina mia, è un camion di un camionista e basta. Ma questo per tutti gli anni 70 però, non per un giorno, due giorni. Tanto è vero che io la macchina la mettevo dentro in bottega, avevo fatto le pedane e mi mettevo la macchina in bottega, tanto più che non ero sposato e abitavo ancora con mamma, per cui vicino lì, mia mamma abita in via Sando Manzoni, si può immaginare, non è vicinissimo ma non è nemmeno lontano, a piedi si può fare una passeggiata di 10 minuti per dire, no? Per dirti, oggi arrivo lì, oggi come oggi arrivo lì e devo fare 5 volte il giro per riuscire a trovare un parcheggio, sempre nella stessa strada, o Marco, perché è diventato impossibile parcheggiare, capisci? Sì, e qua lo stesso, certe volte o qui o nella via di su o nella via più giù, che sono parallele, certe volte 10 volte il giro, forse anche di più. È diventata una cosa insostenibile. E vabbè, poi certe famiglie ne hanno tre, tipo uno è il marito, la moglie, uno è il figlio o la figlia. E quindi un macello. Una volta si usava una sola macchina familiare, adesso ce l'hanno tutti. Tutti. Va bene. Dai, vi lascio ai vostri discorsi, dai, rimango in ascolto. Riprendi Gianni. Ciao Marco, con Corretti, ciao Marco Rix. No, io sto andando via, dai. Mi ha chiamato mia figlia, domani deve partire. E ci dobbiamo vedere stasera, dobbiamo fare una cenetta. Ci sentiamo, vi auguro una buona continuazione. E niente, buona giornata per domani, ciao. Salutala da parte mia, già, anch'io sto andando via, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ok, ciao Natalino e ciao Gianni, allora, e ciao anche Marco, salutoni, a domani se coincide. Ok, vai lui qua. Ok, ciao Gianni, buona fine serata, alle prossime, dai. Ciao anche a te Natali, a domani. Ciao Marco, la Bonco Rix, oggi non sei in forma. Va bene, io ancora 10 minuti, poi anch'io vado a portare il cane. Le giornate sono molto più corte e quindi se no è bugio bello giù. Sì, tu immagina che adesso a fine mese quando cambia di nuovo l'orario, a quest'ora, che si sa, ma a quest'ora è già notte fonda, si può dire, con l'orario nuovo. smonto, ma molto più presto, poi quando incomincia è brutto tempo, alle 4 e mezzo alle 5 di sera non si vede più, è già buio, bisogna accendere già le luci in casa, nonostante le finestre, per dire, cosa ci vuoi fare, purtroppo è così. Sarebbe stato sempre bello avere luce fino alle 9, 9 e mezzo come per l'estate. Sarebbe stato veramente bello. Purtroppo non è possibile. Purtroppo il tempo cambia e peggiora anche. Forse piove anche domani, qua sarà di mezzo a poco. Perché se piove è ancora peggio. Sarà più buio ancora più presto. Di come ha fatto oggi. Anche oggi dovevo avere acqua, invece acqua non ha giù vista, una bella giornata, io ho lavorato benissimo, stiamo ultimando un sacco di lavori ancora. Non so. Vediamo, adesso domani c'è questa squadra che arriva da fuori, devo consegnare questo materiale, se mi finiscono questo lavoro, con la speranza che non piova, diciamo che al 95% abbiamo finito tutto, perlomeno nella mia zona. Va bene, poi manutenzione, stiamo facendo i sollevamenti, ci vuole proprio per l'inverno, perché poi piove, non puoi fare nulla, capito? E già va bene così. Ok, e niente, cosa vuoi ti dica? Nulla. Io sono ancora impegnato al lavoro, fortunatamente gli orari sono molto migliori rispetto a prima, 2, 2 e mezza sono già a casa, però quando c'ho la reperibilità capita che mi devo spostare magari durante il pomeriggio 2 o 3 volte per emergenze, ma non fa di nulla, già va bene lo stesso. Certo, già lo credo, ci mancherebbe altro, adesso... Lavoro così, dunque non devi accettare così, ovviamente so che lo accetti, perché so che ci vai a lavorare con passione, soprattutto a differenza di tante persone che non regalerebbe a nulla. Dunque, come fanno poi, io mi chiedo, c'è questa gente che sta in giro buttata dalla mattina alla sera, soprattutto quelle che stanno per nei circoli eccetera, come ti guardano gli italiani, non lo so. Mamma mia, che schifo, per carità, no, io lo sai, a me piace il mio lavoro, dal 91 che sono qua, quindi lo faccio con passione, lo faccio con molta dignità, lo faccio con tutto quello che serve, e mi piace, se sono arrivato come sono arrivato è perché vuol dire che ho dato tutto quello che l'azienda mi ha chiesto, altrimenti non sarei stato a quelli veri sicuramente. E sono orgoglioso di quello che faccio, per me e anche per gli altri, per carità. A volte protesto perché me lo rilasciai di avere il medico del telefono, no, non può essere il mio referente di zona. Direi che è pronto, te lo sto mandando, capito? Adesso non ci abbiamo tutto diretto col telefono. Quindi me l'ha mandato direttamente, ecco, sono andato, ho tirato tutto il tabù di 2 ore, siamo entrati di un'ora, di mancavare in cuscinetto, capito? E quindi li prenderò domani mattina da un'altra parte durante il viaggio. Non ci scendo adesso anche perché è tardi e le già chiuse, chiudono le 6:30, quindi. Va bene, e giù, tu se vuoi già ti impegni la giornata, qualche cosetta ce l'hai sempre da fare, che giustamente dici, ma che cambio fate va, a giù ha fatto, basta, non me ne ha fatto più nulla. Infatti, no, ma dalla mattina già, sempre qualche cosa, già me l'ha detto, stamane non sapevo cosa fare, e mi sono messo a mettere a posto quello che era già a posto, si può immaginare. Tu mi dici, ma se l'hai a posto cosa vuoi fare? Vabbè, tanto mi ha passato un tempo, per cui ho fatto così. E lo faccio sempre, cioè vado sempre in bottega, anche perché trovo gli amici lì, capito? E dunque, un'ora con uno, un'ora con l'altro e facciamo la macchinata. Un caffè, un cappuccino e ciccia, una pasta e siamo a posto. 4 chiacchiere e così si fa. Invece la sera esco di meno, raramente esco la sera, però anche la sera, a meno che non voglio uscire mia moglie, allora è diverso il discorso, alle volte esco con lei, perché è giusto così anche, no? Se no cosa vai? non posso stare sempre rintanato a casa, cioè, assolutamente no, tanto più che tante volte rimango serate intere al malattio acceso e non sento nessuno, allora tanto vale fare anche due passi alle volte. Buona, riprendi qua. Beh, infatti qualcosa da fare già tra le 27, io la gira, tu immagini, detto, ma intanto sono le prime, mi devo preparare questo vecchio materiale, ma gli ho buttato a casa i registri di conduzione per firmarli, che ogni mese li firmo prima di consegnarli, controllo se tutto a posto, e ho messo qualche scrifione, mi ho strappato tutti i fogli per consegnare in ufficio. Avevo finito qui, ho detto, ma hanno aggiunto la faccia, già mi ritrovo in radio, invece un'ora da voi e gli ho cominciato a buvirmi. Vabbè. Beh, Giulia, io ti saluto, dai, che sono 20:30, così mi sistemo il cane prima ci sia buio presto, davvero, se no non vengo manco se fate dei bisogni. Ci aggiorniamo domani, dai, mi ha fatto piacere sentirti e niente. Speriamo bene, quando è la Champions, quando gioca il Champions adesso la Juve? Beh, adesso intanto c'è la nazionale, no? Poi, non lo so, come se te stanno attraverso dire, ma mi sembra, forse il 28, boh, non me lo ricordo la verità. Adesso c'è la nazionale, vediamo un po', anche Belotti, poveraccio, mi sa che lui si è infortunato abbastanza in maniera pesante, al ginocchio, e così riveniva stesso. Poi Ancelotti è stato licenziato, già lo sai, e nonostante tutto ha preso lo stesso il Bayern. Vabbè, l'hanno fatto fuori i giocatori, cinque giocatori contro di lui c'erano, contro Ancelotti, e dunque l'hanno fatto fuori, perché si sa, non è che potevano mandare via cinque giocatori e tenere l'allenatore, è ovvio, no? Vabbè, qua, ci sentiamo, dai, buona passeggiata col cane, a domani, ciao, qua, buonanotte. Ciao Giù, vuol dire che è uscito. Ma se ne vuoi tornare in Italia ce ne dorra, già ve ne loco. E se no si impicca Bruetto. Ciao Giù, che vado a portare a Filippo, vai, ciao. Ciao. Matto, tu hai preso di sì. Ciao, beh. Ma c'è un rumore di alternata sotto. No, attacca del 60 già, lascialo stare quello. Che non mi piace come sta andando. C'è un rumore di alternata, non va bene, attacca del 60. Da giorno alla notte. E io credo, io le cose le tratto bene. Io ho la linea Alicraft che è nuovissima, nuova. Intanto l'accendo, però oramai le valvole hanno perso la sua potenza, capito? Però non mi interessa, intanto non la uso, però l'accendo ogni tanto ad ascoltare, già va bene. Ok, mi hanno chiuso tutti, era una bella ruota stasera, c'era Giulio, Gianni, Natalino, Marco, è entrato Franco Lassosso, insomma già va bene, già va. Almeno a passare la serata, giusto così. FL50B, ricordami che cos'è, quello della Summer Camp, cos'è? L'altro pezzo che manca? Ah, sì, che si trova, già si trova. E ho trovato io il trasmettitore della linea Lecraft, ti ricordo tu mi avevi dato il ricevitore. Io ho trovato il trasmettitore, 46T. Quindi già si trova, se cerchi già lo trovi già. Ne aveva lui di queste cose. Ah sì, è vero, tu mi avevi dato il trasmettitore. E io ho trovato il ricevitore. Sì, non so, anche il microfono tu mi avevi dato tu. No, non ce l'ho sempre completa quella linea, bellissima, no, non l'ho mai data, è sempre lì. È sempre lì, ho già. Va bene. No, ma se trovi, sicuramente, se Claudio è esperto che si mette a cercare, già la trova. Il gratis sto usando con l'MB più 5. No, questo è nuovo già. Nuovo. Cioè, è nuovo. Ok. capito, usato pochissimo, era di una persona e via. E niente, gli ho comprato un MB più 5 perché io ho un più 4 e il più 5, ne ho due, però gli ho comprato un altro già testato, capito, con già il connettore suo, mentre gli altri sono per altri baracchini che non li tocco, se no sto a fare porcherie. Ogni baracchino c'ha il suo microfono a tavolo, quindi questo mi ha dato Gigi, ho preso la Gigi e funziona molto bene. Sì, no, ce l'ho, siccome io ne ho due grandi di radio, sono gli unici baracchini che ho base, e il DAC che è il più grande baracchino al mondo, non ce n'è per nessuno. E poi sopra gli ho messo il Legax che diciamo che è della stessa larghezza, ma non stessa altezza e stessa profondità, è un po' più piccolo che il DAC, mamma mia, sembra un amplificatore da 5 kW come fatto. Quindi niente, c'è questo spazietto, l'ho messo lì, ogni tanto alterno, in questi giorni sto usando molto il baracchino, è la verità, intanto per fare due chiacchiere è più che sufficiente. Però tengo sempre accesi sia il 30 che il 40, tengo sempre in stand-by accesi, capito? E poi quando magari devo usarlo, commuto e vado in trasmissione. Però è preferibile sempre tenerli accesi, non si sa mai. No, questo c'ha anche una bella potenza, c'ha, adesso sto andando intorno ai 15 watt e la potenza è a metà, praticamente c'ha quasi 30 watt PEP in AM e quasi 50 in SSB, è stato un po' modificato, dai, però non c'è nessuna modifica esterna, nulla, è stata solo fatta una modifica interna e basta come potenza, per il resto è perfetto, nuovo, non lampeggia niente, decimale è perfetto, tutto ok. È una bella radio il console, già, una bella radio sì, no io già lo sai quanti ne avevo, li ho dati quasi tutti a te in base, perché alla fine poi stavo creando un po' di casotti, io c'ho molti HF, capito, quindi la parte amatoriale si stava un po' confondendo con la parte CB e quindi ho un po' separato le cose, infatti all'inizio proprio della sala radio c'è il Galaxy DAC e basta, il resto è tutto parte amatoriale, non ho messo altro, capito? Anche perché poi io i microfoni ZG li posso vedere poco assieme ai 60, quelli della Yaesu, quelli della Icon, che sono tutti microfoni professionali, no? Quindi ho messo questo e con uno faccio due radio, gli altri sono tutti a parte. Va bene, va bene. E già, guarda che sono belli tutti, quando sono nuovi funzionano, sono belli tutti. Questo come vedi non ronza, niente, 220, presa diretta, è nuovo, è venuto molto molto bene, è nuovo, sono soddisfattissimo, da tanto che non l'ho usato. Però, ti ripeto, già va bene anche così, dai, fare due chiacchiere, arrivi capi al mondo. E per il resto, com'è andata poi la cena, tutto bene? Scappa già, d'accordo, dai, fate sentire domani, noi intanto dopo le 6:30 siamo quasi sempre in radio, un po' tutti, dai. Ciao, buona cena anche a te, saluti al QRA e ci aggiorniamo già, ok? Ciao, grazie alle due chiacchiere. Ciao già, altrettanto a te famiglia, ciao ciao.